Attenta cuffetta. Ehi. Buonasera. Luca, chi sei? Luca, figlio. Chi è? Chi è? Già ci sto, grazie, mi stavo riposando un po'. Oh, ragazzo. Ehi, a chi era che stava parlando che non l'ho riconosciuto? Avanti. Ciao, Luca, come va? Cristian, ciao, Cri, e beh. Ciao, vabbè. E sì, Cri, in zona? Ehi, ehi, Cri, sei il parallelo di Antonio Riserva, grazie. Vabbè, buonasera, ben sentito anche a te. Ah, ti stavi riposando? È dormito, dici? No, so, abbiamo uscito tra un po', ma sono felice che c'è un po', non dico al 100%, un po' fare al 50-60, dai, naso libero. Mettiti il coso se devi uscire, quello spray. Ah, mi sta la foto che ti ho mandato, quello lì mi ho preso, ma mi ha aiutato molto, è un bel amaro la pastiglia, un bel amaro. Ma se no sono fatta l'imperina e il propoli. La congestione nasale? E il propoli ti puoi prendere, fa bene anche. Sarebbe? Propoli estratto dal miele, dalle api, un antibiotico naturale. Ah, vabbè, già mi ha fatto bene anche questo qua. Propoli, è una mazzata, guarda. No, vabbè, io ho il naso tappato, mal di pasta. E quando c'è il naso tappato ci mai a fuoco. Già lo so già, quando ti si tappa il naso, tu respiri un bel male con la bocca. Già lo so già, e adesso curate cosa lì, va. Allora, diciamo che adesso sto godendo il naso libero, mamma mia. Brutto, non c'è cosa più, c'è cose più brutte, ma cavolo. Già lo so. E vabbè, adesso anche siamo pulito, allora. Sono stato attento alle correnti. Cosa, Cristian, ho capito cosa ha detto. A dormire coperto. Vabbè, dopo senza mutande io, comunque, vabbè. No, quello già era mia, le mutande per sicuro, ma... Ah no, per sicurezza, no. C'è qualcuno in giro ancora, Allora, come quello... Non so se te l'ha mandato Luca... No, è Luca me l'ha mandato. Quello che scende dalle scale, grazie, l'hai visto col negro? Ehi, hai barrato, guida. E quello va a casa di Luca. Già l'ho visto, già infatti mi ha domandato dove sta quello Luca Flipper, e io l'ho indirizzato là, chissà se mi è arrivato, bisogna chiedere a Luca Flipper. Infatti quelle erano le scale del palazzo suo, si è fatto le scale, tutto il palazzo si è fatto, prima da lui è andato però. Sarà se crede, cosa ne pensi? Sicuramente sì. Poverina, però mi si dispiace, da una parte, vabbè, ma ci voleva. Poverina, no? Al marocchino. Marocchino, povero marocchino. No, è povero che già le piace, puzzi rosso, diglielo. Sì, no, appena. Altro che poverino, Oh, che appena! Metà, Anzi, è meglio una bella giapponesina a freddo. No, che chi sa di fare di beni minori? Chi si sa fare botte in trinti? Lui, riprendi tu, Luca, sono al telefono che ha squillato. Sì. La giapponesia sta facendo i 20 kg in un mese, fidati. Cosa, Cri? La giapponesia sta facendo i 20 kg in un mese. Non ho capito. La giapponesia sta facendo i 20 kg in un mese. Ah, già che hai fatto? Sì, ti scusa anche lo zemino dalla cervicale. È vero. No. Lavorando stai, Cri? Lavorando stai. Sono in ferie portate. E poi come sta qui? E è andata bene, dai. Invece abbiamo trovato una sciatica con dei nel disco lombare. Ma non mi sono messo a riposo forzato. Aiutata anche a distrutta io, altro che. A distrutta. Purtroppo se voi soldi di lavorare. Ti ascolto, dai. Ciao qui. Cuffetta. Sono al telefono. Con la matte? Ma con la matte? Non posso mettere la mano, no. Oi! Senta, Drommito, buonasera. Matta, buonasera, ben sentito, Come se la fa? Da una mano all'altra. Almeno qualcosa fai, oh. Zafuglia. Egli dà ragione, Zafuglia. Oggi si è rientrato presto, o no? Insomma. Allora. Beh, a casa adesso io, per sapere un po' chi c'è. Non c'era nessuno, anzi, c'era qualcuno dall'altra parte, però non parlava, c'era sempre la portante, evidentemente stava mettendo a passo qualche cosa e stava ascoltando così. Sì, ci dovrebbe essere Graziano all'ascolto, se non mi sbaglio, se non si è finito l'insulina. Graziano si è appena la moglie ancora, che te la sei annudente, non lo so, uno. Attenzione, Graziano! Vai, attacca, non la fini più, ti date cosa, Poi sta tutta la notte, fa vedere niente di buono fatto, Deve darsi fenne cosa allora. Certo, o è in giro, o è fenne cosa. Magari giro, no, ma no, cascosa senz'altro, va bene il computer. Certo, oppure è per le cop da si sia per il buru l'aerosol, sa, mi pare se la fate che c'ora. Andiamo. Già non è che fa, tu per cui si tiene sempre in movimento all'ordine del giorno, e se no se si trombi guai. Come te tutti. Allora, attenzione gatto chef! Siamo tutti così! Purtroppo cosa vuoi fare, gatto? Ognuno pare così sui e per cui... Caso per il fa che cosa? Bisogna farla in occhi! E quando abbiamo un po' di tempo, no? Non ci credi che non ciò che ha... il tempo, ma ci sono via ore che non finirei mai. Però adesso finiti questi tempi, bisogna fare cose più importanti. Questo sì. Quello sì. E mai lo mazzano più di loro a Besattini e battendo il paracchino, gatta. Marco mi messo lo mazzano. Purtroppo, una volta era così, ma questi tempi sono passati ormai. Bisogna sempre andare avanti, certo. Fatta la cosa da sala più ad un'altra nuova. Mi sarà di fare dei ceppi nuovi e allora bisogna fare due muri così. Bisogna pulire. Fatta di sala che fate. Bisogna vedere come te la zurrada, il manzano. Adesso è diversa la questione, per carità, comunque. Cosa vuoi fare? Devimo pensare solo, sta bene, basta. Già abbiamo sacrificato lui da giovane, dai. A se tempi, tempi tutti diversi, da va. È tutto ammazza. Il saluto del giorno. Aspetta. Per carità, c'è visto, però un uomo azzurra con cosa, con barruzzo. Allora, vera, c'è famiglia, che lo mazzano è riuscito verso di te, sì, quello figlio ruba un travaglio. E il cammino evidentemente diceva che cosa è attraffata la moglie, no? E la moglie non rispondia. E noi siamo preoccupati, dice, ma non si avrà sentito male se mamma non lo figlio riuscia. Torna in dredo, la ciappa tutta imbavagliata, mossa, e tutta la casa sotto sopra. Certo, e sono entrati i ladri, sono entrati. E allora, catta, la tutta la faccia, evidentemente, mossa, soffocata, catta, che sa femmina, catta. A che punto arriviamo, cazzo, lo dico io, Che sì, sa bene che so, è andata una casa giuia, abbiamo fatto un disastro, abbiamo fatto. Basti, ti disoccupi in una maniera, beh, cazzo, tu sei attento oggi, cazzo, ma sei dentro casa, non sei dentro casa, cazzo, ecco qua, però niente dentro, si vede l'isola, è saltato, quando sei uscito, capito? Ti sono entrati, chi ti l'ha rimbavagliato, questa casa è leata, mano in piedi, e tutta la faccia l'ha rimboricata a coso, non so cos'è chi la se... insomma l'hanno soffocata, ecco. Quando mai anche la coscienza non si ribrucia, gà. La coscienza si ridovisce a bruciare, chi si... che hanno fatto queste cose. Insomma, ti sono delinquenti nati, so... caridaio. Purtroppo. Catto, la legge, non rifate niente, cosa rifate la legge? Ui, catto, e dice la moglie di Capari subito. L'unica cosa è... già d'ananzi, piano piano, purtroppo. Ero figlio Rosaga, so, io dico che... gli andano nelle fasi fura. Però ma la pare... ha liberato direttamente la legittima difesa, gatta. Cazzo. Uno, cazzo, per registrare di spazio è un buon massà, è delle leggi, è già uscita e c'è legge, va. Infatti, per legittima difesa, va, soltanto che bisogna stare attenti. Cazzo, va di male che entri nel tuo caso, dentro il negozio, cazzo, e mi ammassi, cazzo, vabbè, come ci si fa, cazzo, è che tu non puoi parlare. Tu l'altro puoi parlare un padrone, puoi parlare un ladro, ma tu ti immagini. Sì, non mi pare che si dà pure un'altra legge, ma che si... anche che si ladri è coso. Che i condanni a vaso, un bel grafico. Oh, così è. Sì, vita no, vita cosa, Pani. Non sentite cosa per gli anni fa? Anche se ci presentavano i femmini, cosa li volevano fare? La castrazione. Non la ci compresi bene, la sintesi l'ultima, però la ci compresi bene a questione come ti è andata. Castrazione chimica volevano fare, solo che... con fanno che sono queste cose, andavano a finire che riveniva cancro e tutto quanto riveniva a salienti. E quindi non l'hanno buttata. Ecco. Bene, magari decide per riportarlo e non li portano, certo. Però, chi c'è la legittima difesa è giusto che sia approvata, che vi sia, gatta, che come si fa? Ma fuori di sì, come dentro dentro casa mia, gatta, fai che ci sono male biati, non è possibile, gatta. Meno male sono riuscita a catta, a farla che c'è legge. Ma da voi tant'anni? poi tanti anni mi sono riusciti. E purtroppo quando già c'è appesa niente delinquente, boh, io non ho mai dubbio in faccia a nessuno conoscendo che sei delinquenti. Io lo credo, mi sono mai fatto per carità. Comunque è vera, legittima difesa, via, ma io me la metto da Giovincello, che fine che c'è niente, da poi la via ricavata, no? Non lo so, Giammadì, di Sarigi. Mi pare che fila che Sarigi. Per legittima difesa uno poteva abbassare. E non aveva mai la via regalata, ma se ne tornò da punire. Era male. Meno male che sono riuscito a farla, che c'è ricci. Certo, andare in Mozzibocca. Gira, gira, condannava chi era derubato, condannava, li fece condannare un ladro. Te la menti? Sì, ma sai cosa è? E io te dico buono in galera che noi dovremmo bagarle, che si deve ingampare dentro, deve ingampare con buona condotta, domani abbasciani la bene, abbasciani. Quindi, la cosa che devi a fare? Pone in camera, a camera vai e distruggi. E allora, falli travagliare. Tu vuoi mangiare? Travaglia, buono lento, fallo travagliare. Catta, non ti deve mangiare, non ti deve dare a mangiare noi, tu per mangiare devi pure travagliare. Mi dice che non si può fare questa cosa, non siamo criminali. Di devi nascere criminali. E noi dobbiamo tenere in carcere, ma a vita, tenere a mangiare e si deve mangiare a conto nostro. E infatti siamo noi che siamo andati a mangiare allora. Invece, falli travagliare. È un travaglio che fa dire che con chi si mangi tu? Non si bisogna fare. No, ma che non fa dire niente chi ti mangi le bise e se ne frega, l'ho capito? Ormai chi si sono abituati, come dire, sono abituati, per cui li bisogna entrare e entra, esci, capito? Sì, ma non è venuto mentre esci. Hai visto che d'altro che abbiamo sul subizzino vicino a un canale? Ah, non l'hanno insarrato, l'hanno abbigliato e insarrato. Aspetta, matti di manginese, che si... a che punto si marre vende, cazzo? Come entri cane, basta un cricciare come ti ammazzano un animale, cazzo, ma tutte le immagini. Io ci sono animali, non so cristiani, animali sono chi. Sì, tutte le maniere venne. Ma, per carità, no, se ci ho capito la lavorare, ma non si è dato tanti cicosi. E chi si ha già era di se fare a firma chi si legge? Va invece, ma le leggi se le fanno per loro, to. Le leggi se le fanno per loro, non per un pubblico. Insomma, andando peggiorando, siamo. Ci sa che non cambia che sa cosa. E allora. Invece mi dico lasciamo un mezzo rende, va, vediamo un po' cosa riesce fuori. E beh, bicicletta oggi è uscito, sì. Rovende altre cose, rovende? Allora sei da te da allora. Fa nuda, rovende cosa, quindi non potevo uscire. Poi a luna e mezza dovevo andare a pigliarmi nei botti, quindi chissà, forse domani ho da reddito, se non faceva domani. Sai, te. Ma non credo, non mi pare. Non volevo se mi pare che appoggio domani, non mi da mezzo e come sera. Va appoggio, però bisogna vedere gli cacci. Assassino e manna, a paesetto, non ti piace che fosse. Viva. Cosa vuoi fare? Bah. Io devo fare campagna, ma... non la mia cara, non mi sentia bene oggi, cazzo. Tutta la mal di stomaco. Non puoi lasciare dell'omari, mi immagino una bacciglia. Verso l'obesi e per male un po' mi ha calmato, gatto. Gatto, tu manzano, gatto, ma non si può essere. Tutto senza dormire, c'è tutti, Chissà, siete a Giomari. Chissà, chi entra a Castro, Cosa tu? Chissà, si entra a Castro. Attenzione, Luca, il bello. Così vi piace, ma lo bello. Mi ha raccolto il raggio marino, mi. E te giurai. Sì, vedi, la cavata bene la tratta la macinella. E avanti, tranquillo, vedo, capito? Paiso che è entrato, io prima vorrei arrivare a la macinella. Così è bello bene. No, allora, non va a vedere che la ruota destra è di quella da Lucca. Però poi nel frattempo è venuta gente, se ne è andata là, e adesso sono qua. Bello bene! E noi siamo qua. Così è to. E io non credo. Cacchio. Noi ci sono due nocchi, no? E allora, cosa c'è di bello? Dimmi tu! Cosa vuoi che ti dica? Cosa hai fatto di bello oggi per dire a Zonzo? Aspetta, ero venne una cosa che avalla giù finita e non ve penso più. Bravo, e tu in campagna eri, Giovanni? Parlava la campagna a San Dai Occhi oggi, capito? Prima parlavo io, ora San Dai Dai Occhi oggi. Ha fatto bene. Animale mi ha mandato un video, Luca Manicomio, del suo maestro Albanese, lui dovevi dentro un ingegno, con i pantaloni, vara. Ma io non disse travagliato. Chi te l'ha rubato durante la carriola, Luca Manicomio? Tendi oggi dallo schiavetto. Infatti, a ciappati ci sono tutti e due, a cabappare. Meno male non si è posto la carriola in campo che mette una buccia e manda le fotografie. Dove intendi minasserne la chiesa, ricudia burro di bombette di cimento, ricudia. A Luca Flippo, e chi tu in Tunigene, lo muro arrascenna tutta arrascia, e chi tu mi ha dato ricudia una sregliata di frusta. Ma chi si che travaglio dura un bene, un disso travagliente. A chi ha detto Luca che ha travagliato in comune, Tore, e tu devi avere solo un guardiano e dirigere i lavori. Cosa era? Lo gozo, l'impresario. L'architetto, la giunta invece era l'impresario, geometra, mi ha detto che era l'architetto, e detto doveva solo dirigere con il dito. Assistente contrario era. E tu mi vedi a chi tu l'albalese, a chi penna tutta, a chi pì. E non dovevi vedere una macchinetta a Maria, questa è il pantalone nella bisogna. Certo, andiamo. Dai. E chi non faccio un corso, non ti abbiamo mandato un video, ce lo dovrei avere ancora nel telefono. Ah, vai da finire, uno tra vegliete da sabai denti, giochendo, si capito tu? Così si travagliami. La giusto per un gruppo di chi mi ha controllato a tutti e due. Ti aveva fatto un buco a me, beh, la carriola a te. Invece di aiutare chi di un bovarino, tracco morso, e la pantalone, il traginone, vai via, non si confidia. Un'era un gruppo di un pantalone in terra. Oh, così è. Da tutto il travaglio che fate, capito? Se li sono allentati il pantalone, capito? Per avare, capita. La fotografia ti ha mandato, no? Lupilmino, adesso sei ragazzo di romanzo. Riprenditi che guardo se ce l'ho ancora. Cos'è che prendi? Guardo se c'ho ancora il filmino e lo manda a Gian Maria. Da salva. E tutte le immagini, capito? Travagliente, ragazzi, travagliente, devi fare pure i pantaloni, capito? Devi fare la richiesta. E chi non ha mai il disegno, ride il disegno. Andiamo, dai, certo. E allora, così si fa della torrata, capito? Dai. Vabbè. Ma che la sta cos'è? Ma cui su fate, ragazza, là? Cosa vuoi fare? aspetta che manda lo filmino, manda. A Baravera faccio il filmino, cazzo. Una volta ti appoggio la carriola in capo. Con due cianchi a posto delle corri. Tu camminendi, in bicicletta. Con la carriola in capo. Andiamo. Mi fa dire di ciangoggia. Infatti, batte di combinare con la maniera, gatta. All'inventa, gatta. L'intelligenza, gatta, è troppo. Gian Maria, Messenger, su Messenger ce l'ho, già ce l'ho, a te lo mando, ce l'hai Messenger? Dovrei averlo, ma io non lo so cosa cagli su, solo le cose, la scarpa riesco a far funzionare bene, capito? E guarda WhatsApp, mi Messenger, ma ce l'hai inserito Messenger, è la stessa cosa come WhatsApp. Prova a mandarla per se riesci a ciapparlo, dai. Aspetta. Capito tu com'è la faccenda. Via. Cosa vuoi fare? Ah, manca ma salute e pupa. Tanto chi dà ragione. Via. Meglio qui c'è sento malani, là. Aspetta un attimo, Gio Marì, che c'ho... Un attimino. Dai, fai acceso, cacchiamo dopo. No, non ci sei su Messenger. Aspetta, guardo di qua, vedi se riesco a su WhatsApp. Aspetta e guardo. Fai. Ehi, Gian Marì. Eccoli. Ecco qua. E allora, Graziano, non è entrato. Se c'è di... Sta mandando il suo filmino e dice che non la uso. Io lo scafo ce l'ho, ma quell'altro cosa non ce l'ho. E bisogna vedere come te lo manda, Edo, che tanto non funziona, secondo come lo manda. Ah, così è. Sì, vanno provato un po' di niente a mandarmi da me. E non era compatibile, non filmi che non è un coso mio. Ricevuto la giù ricevuto, poi non riesci a aprirlo. A che la serie mi hanno mandato un altro. E non mi sono riuscito. Meno male che era mio nipote, no, che la città da Edda è già l'ha acciappato subito. Solo lo scappo non riesco a maneggiare, ma lasci così, no? No, nel mio qualsiasi cosa che mandano anche WhatsApp in altri luoghi. Ma c'è subito, però bisogna avere da voi mentre mi rimandano. Ho capito. Ma ce l'ha mai prova in dietro. Vediamo un po'. Non fanno, ho guardato, mi sono capai segni, ai segni, i segni. Domani non vi pago, hai compreso? Se la pusciata a Luca Flippa e la sua camera c'è una montagna di garraggio. Ha detto, dopo che hai finito lì, ci butti tutto con rotavelli, ce lo porti giù a conto. Però domani non ti pago, è venerdì. Mi dà conto che sta sul burro, Dai. L'umaniere comanda di lui, l'umastro, non è attesa, io lavoro, ti frusso, al palese. Come subito, no, certo. Ai. Hai visto tu? Lo maniare del di comandano principali. Oggi è così, Oggi è così, comanda più lo maniare che lo mastro. Gatta, due coppi di daroccia a giubilato io, gatta. Oia, figli, gatta, avevo fatto la via a me. Gatta, se non mi vuoi via, gatta, regali il passo, ricontinissi, gatta, due coppi di daroccia, gatta. Oia, però lo mastro è romaniale, invece avevo romaniale che scudi lo mastro. Ma le bibine! Cosa è da mezzo bussato, da di oggi, da chi te chiedo, chi ti accelerenni più veloce e pare proprio un capo cantiere. Ehi, non fai male, no. Non fai male. Ehi, vabbè, ma quando devi fare un po' qui sabbazza, ci lo fate travagliare, romaniare, lo mastro. No, Luca, ma come la fai travagliare Luca Flipper? Ehi, se so che c'è, ma quando devi fare un po' qui sabbazza, che puzza. Ehi, a vedo, mi. Ehi, già si vede che già, fino alla metà bassa, tutto battano di fare a fare, E tu richiedi a fini e le rasenni. Avvio. E per forza a contravare troppo, allora devi fare la buona del Bazzaroli. E allora? Ehi. Dove già ne hanno lì da fare? Ah? Che da fare in quell'appartamento ce n'è? Ah, cosa sto facendo? Il mezzano, no? No, ho visto, ha fatto un muro, ha tramezzato una camera e è rimasto un corridoio. E le turighe ne ha fatto in dritto, ha fatto in fuori e c'è un gatto. Ah, le tene lo maschio, te lo grosso, poi buono la retina e poi la sviluppino, no? Ah, capito. Certo. Così che ero morto, davvero maniera la baizzente, un prima, dai. E dentro di oggi, ne ha posto di mano, lavora! Schiavo! Già ne ha detto un poco di cosa! Ah, sale quello, bisogna farlo travagliare su, che deve essere troppo mandrone! Tore! Sì, a Gianmarie, vieni! Ah, e te, lo mastro comandante, lo maniale comandante lo mastro, ah, così è bello me. Andiamo. E allora, che se pensate pure il Bazzaroli, che è travagliente, immaginate, ragazzi, non sapete la macchina che lo fa il Bazzaroli addosso. Ma c'è la travagliente, mutante. No, infatti è un pantalone di tutta, va. Ma travagliati, grigio, e deve essere le lasse che alleni ne vara, ami, quando ti muovi ne vara, capito? E tutto così si vede. E l'hai unito a Luca a dare un paio di fratelli. I debiti sono finiti, i debiti di prima sono finiti. Sì, ormai, tutto fa brodo. Graziano che non è bobbito di brodo. Ehi, diamo la mano lo brodo con la minestra, o con lo stellino, con lo zucchetto, con i fin dei fini. Parlo con te, ma che non ne posso mangiare, se pongo lo pane in mezzo. Così si sviluppa lo brodo e allora me lo mangio. Ma che se manco rubani puoi mangiare, non devi mangiare a pezzareddo. No, se mi metto mezzo panino per dire, ne vuoi con la mollica, poi il pane non ne mangio altro, magari un secondo, se è una fettina me la mangio senza pane, la fettina è un'insalata, capito? E poi una frutta e buh. Sì, dai, andiamo. Ari notti mi davi a 390. Chissà che mi sono convenuto con quel cortisone che sto prendendo. ce l'aveva a 3,90, era tutto attuntunato. Sì, vedrà che stasera ci ho rubato. Catta, è per via a 90, vi la più. Oggi invece, prima di pranzo, ce l'avevo a 182, ce l'avevo. Ma la notte mi sa a me, perché poi devo prendere quelle pastiglie, capito? Una pastiglia è il discus, devo fare quello che si aspira, ed è a base di cortisone anche quello. Dunque, so, tre pastiglie più un discus, uno spruzzo, più polverina. E chissà, ma te c'è a base di cortisone. E cadermi la misura, io prima di cuccarmi, 3,80, 3,50, 3,90. E già, ma ero un gabbo a te mesi da bui. Te va bene così alta. Eia, se te lo sto dicendo, però dopo che mi faccio l'insulina, aspetta ancora, hai roba in cucina, una mezz'oretta così. E già mi si allevia, mi sta diventando un rapporto. No, io la me la dimensionata, c'era le 4 e un quarto, 123. E poi mi misuro con quell'altra macchinetta che mi ha fatto comprare, quella che ti metti nel dito, la pressione del sangue, per vedere l'ossigeno del sangue, e ce l'ha 92, e già va bene, 92, 94, e già va bene. Certe volte già ce l'ho più bassa, 82, 79, quando è così c'ho poco ossigeno nel sangue. E poi invece la pressione è 94, 99, 106, capito? Cioè, quella macchinetta che ti metti, che ci metti il dito dentro, me l'ha fatta comprare il medico insieme a un coso di buffa. Sì, certo. E se mi bussi, bu. Perché me lo devo misurare e segnare in un foglio, capito? Poi quando vado al controllo lo controlla. Ma se così ha, salto. Gli allugrini, tutto questo cortisolo che pigliete, gli allugrini si strazza via. Certo, è un bel puro, anzi, ti dico che chi passa così assa è tranquillo, non assai, però un po' tranquillo, dai. Però quando è così assa, mamma mia, per carità, no, a me solo la prima volta così tanto, mi pare che abbia, se così interrotto io, quando non più sono diventato. Ma da voi no, qualche volta secondo cosa mangi, chiaro che mi saltano, a me pure. La terra ci ho mangiato, ma ci ho pigliato una colomba, e la pure un barattone mi piglio, e me lo mangio a pezzo così, ma ogni tanto no. Ha già mangiato un pezzo di canturbugno di colomba, cazzo, mi sta stato un bene. Quasi al 200, ti puoi immaginare? No, a me il massimo che mi sta azienda va, il massimo 160, 150 dopo mangiato, ma non di più. E poi te l'avevi messo la tua buia di 2 ore, sennò l'avevo appena mangiato, chiaro che è un bel assa. La buia di 2 ore te la devi misurare, io fossi così. Dopo che mangio, dopo 2 ore, me la misuro. E oggi ci vorrà pure questa pastiglia di cose, di fare dolore, antidolorifica. Eppure non mi sa assata, cazzo. Boh, è tutto strano, E poi c'è 123, facevo un po' qui salotti. Perciò l'otto ma così per la misura d'ore mi do un po', anche domani devo andare a fare l'analisi e poi lasciare che sia un po' bassa. Io già faccio tutto a dicembre, mi sono andato, mi sono già prenotato tutto al coso adesso, al Palazzo Rosa, tutti in chi vi devo fare, sono trasferito lì. Io vado sempre al Palazzo Rosa, cioè. Così che ha lunghissimo, siccome da uno che compie dopo 80 anni ce lo fanno prima, capito? questo, c'è che io alla quasi canduaggio, mi lo dico, quasi per il massimo di due o tre ribrime, capito? E mi mandare subito via. No, a me sono andato entro in settimana, gli ho portato l'impegnativa. E mi ha segnato al 23 dicembre. Devo andare 10 giorni prima a fare le analisi e devo portare tutti i documenti, li devo portare. Quindi, adesso Gappuccio. Devo andare allora me la metto 023 o 19. Non me la metto, è segnato, però vado a Malamazzano, andiamo a Malamazzano e me ne posso, capito? Fatti alla macchina, metto qua a dalla chitarra, capito? Andiamo a Malamazzano, visto e me ne posso. Infatti. Io già è tutta a dicembre, prima di dicembre, desde di prima devo fare le analisi e poi gli porto tutto il resto. Poi il 23 ottobre ho da andare al cardiologo e faccio tutto quanto. Allora vediamo un poco. No, sicuramente a me mi aveva aumentato una bacina, mi aveva aumentato. Mi ha detto si supera i 164, 165, per pilla che c'ha Basilia. Allora ha giudizio che invece è pigliente che c'ha Basilia, mi ne farà due e avala Giuseppe Massa e Gian Davide, già. Un massimo è 143, 145, non di più, capito? Però ripeto, se io mangio come te la sariga, mangio mangiare un pezzo di colomba, mi sa andare all'idiafoli, capito? Però va che sono così, non ne mangio e sono tranquillo, capito? E pure a me mi si alzata nel negozio, però no, più di 160 no. Sale quel punto lì a 160, 162, 64, a non stazza di più. Ragazzi, io chiudo, vi saluto. Cosa devi fare, va? Non mi resta ora, devi fare tua, va? Ho già preparato, ho messo l'intisa, carote, patate, ci ho messo finocchietti e hamburger. Ma secondo, frittelline di ricotta fresca di usino. E boh, vabbè, ce la sentiamo. Ciao Gio Maria, ciao Tore, ciao chi è in ascolto. Rilancio a te, Gio Maria. Aspetta il finale del chiudo. Ciao! Ok, ciao, grazie, sentiamo là, le prossime. Ciao, stai in casa, ci sentiamo. Vai tu. Ciao, grazie, ci sentiamo domani se tutto andrà bene. Ok, a domani. Ciao, grazie. Ciao, ciao, a tutta la ruota, ciao. Ciao, Guffetta. Ciao, Luca, a domani. Ciao, sentiamo domani. Ciao, ciao. Sì, grazie, mi sono addormentato, non mi stanco. Dai. Ciao, Luca, attore, ciao, Gio Maria. Allora mi vogliamo andare sul video, Graziano, per decido. Dice che non maniale è comandante Romassero. Non lo so che io. Ciao Gio Maria, sì. Comando io, tu devi travagliare, comando io. Fallo travagliare lui, fallo travagliare, chi sa la macchina di fare un poco di banza. Che grazie del gruppo, fallo travagliare. Passi di fare tutto il garraggio addosso. Ma si abbassa di voi, farò. Ui, a pari i saccuppienti. Avanti, Tore. fatto intendere, sì, Graziano. Catta, bubu. Ma così vi dovete compulsare. È tutto. Se muove Gio Maria, eh? Non fa male, no. Ma fate bene, Luca, che fate travagliare un mastro, eh. Non devi far travagliare. Ah, che prende a pancia come sta a farmi la grave, la caccia, boh! Ah, va bene, questi fanno la maglia a Luca! Sì, tanto se no non mangia a pranzo, su Maria, Sant'Antonio mio! A te! E poi i catturetti, no! No, che ci... Ah, i catturetti, eh! Allora, catturetti, ha mangiato due blocchi di gasbetto, si ha mangiato! Beh, per forza, se non sei venuto a travagliare troppo, così che per travagliare devi mangiare il burro, no? Ma manco entrato, eh? Il radio, entrato, No, dici che stracco, deve essere stracco, e poi sono entrato. Tutto il drama deve aver fatto fare, a rugire, che aveva fatto da fare. Giovanni, purtroppo quello è un lavoro, che quando lo fai ogni tanto è un casino. Quando sei troppo fermo, capito? A me va comprovato e su capizzi. Proprio oggi, guarda, il boom. Ah, te, ecco, ma cosa è entrato oggi, gatto. Stracco, poi stracco, poveretto, gatto, allora. E l'architetto, care? Tutto è dovato, architetto, geometra, tutto. Impresario, tutto è. Ah, tutto fare, allora. Vedo un po'. Ma io che c'ha che non è entrato, capito? Quello to. Uiuia. Lavoro quando c'è e non c'è, è un coso brutto. Per carità, un attimino tu. Purtroppo è così. È un tipo di lavoro che se lo fai spesso va bene. Allora andiamo bene, ma se lo fai ogni tanto poi è un casino perché ti spacca la cantuvè. Oh, c'è tutto. Infatti. Infatti è così. Uiuia. Ma io quando ero così lo stesso, ho giumulato tutto, mangiato. Entrate nella cooperativa e poi si entrate nella ditta. Vabbè, poi vabbè, diciamo, questo cavolo di naso sta fatto tutto il giorno. Da ieri, tutta la notte, di notte, va a carizzare, mamma mia, oggi mi un po' libero. Infatti ho preso questa pastiglia che ha preso Marina. Non mi ha fatto bene, la verità. Vabbè, con una spruzzatina di spray. È brutto, è una cosa bruttissima. Sì, già lo so, sì. Ho provato anch'io questa cosa così e poi sono riuscito a entrare con la cooperativa la ditta. Ha già soffritto un poco, ma da bui ha giovato tutto quanto. In pensione si va? Sono già 3 anni. Mi vuol diminuire manco 3-4 mila euro mesi. Minimo. E se non rimuovi, ti ricordo. A barri. E dove lavoravi tutto? La ditta di che cosa? La ditta dove ritirano la mondezza. Ah, con la Gesenu, no? Anche con la Gesenu. L'ultimo anno l'ho fatto con l'Ambiente Italia. Autista eri? Eh? Autista eri? No, operaio ero. Poi due anni, gli ultimi 3 anni l'ho fatta come a ritirare i medicinali con il furgone. Ho capito io, vabbè dai, interessante andare in pensione poi. Interessante, sei andato. Ora tocca a me, ma mi sa che a me sarà un po' difficile. Sì, lo so. Oh, sono un ragazzo da 16 anni io, amici, ho iniziato a lavorare. Sono entrato come a fare l'apprendista meccanico, poi da lì sono partito e coso e piano piano quando sono rientrato non c'era lavoro qua, mi sono andato un paio d'anni a Milano a travagliare, a fare un meccanico. Però c'è bello lavorare perché così quando uno lavora i suoi tranquillo e sereno. Va bene, dai, già va bene. Ehi, chiaro, se anche c'è lavoro, lavori, ma poi quando non venne è brutto. Poi me sono rientrato qua, adesso che è entrato a fare romaniari. Bisogna prendere quello che c'è, no, come dici tu. Purtroppo non ce n'è. Ma va bene comunque, non c'è problema, già ci va di tutto. Quando sono entrato io a fare un gozo, aiutate i carpentieri, facevo il ferro e aiutavo il carpentiere anche. Però ho sempre travagliato tranquillo, senza mancare. Beh, certo. Beh, Giovanni invece travagliava in banca, non faceva nulla, aveva i cassucci, tutti i posti da bassi e piano piano c'erano i consumenti. Ma invece travagliano venne lo trovi ogni addanto la ciappi, ma comunque le cose ho trovato il modo di andare via da fare nell'edilizia, e sono entrato a fare il coso lì, prima con la cooperativa e poi con le ditte. Pronto? Signor Gianmarì. Sto qui a tutta gente, dai, ci siamo domani, ci addio pure. Ok, ciao Luca. Ciao Toro, dai, Toro, ripreso io, chiudo, ciao. Sì, ciao Gianmarì, ci sentiamo alle prossime. Ok. Dai Luca, ne approfitto anch'io. Ci sentiamo domani, se tutto andava. Sì, allora, mi avete anticipato perché io già... sono quasi pronto, me ne esco. Anzi, me ne esco, devo uscire. Ciao Giovanni, dai, ciao Tone. A domani, ciao. Ok, ciao Luca.